ballerina. Voulez-vous danser? Balla me pop music. Gioca bambolina, gioca col mio amore. Quieres tu ballar? Do you wanna dance? La kleine Puppe.